Va ora in onda Rock Revolution. Talk about destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Alright. Alright. You say you got a real solution. Ask me for a contribution. Well, you know, we all doing what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Don't you know it's gonna be? In diretta dagli studi radiofonici di CRM Happy Radio, va ora in onda Rock Revolution. Presenta Filippo Brancato. Buonasera, buonasera e bentrovati a questa nuova puntata su CRM Happy Radio di Rock Revolution, il programma rock del venerdì sera. Anche quest'oggi, insomma, un sacco di roba da dire e da ascoltare. Avremo, come di consueto, la nostra intervista in studio con una band che viene da Palermo, davvero eccezionale. Insomma, vi invitiamo assolutamente a non perdere questa puntata. Loro sono i Lix, appunto, e poi avremo un'intervista anche con un'altra band altrettanto potente e forte. Loro sono i Define da Bologna, e quindi anche con loro ci metteremo in contatto e ascolteremo anche dei pezzi. Poi chiaramente non mancheranno le notizie, che ogni settimana sono fresche fresche di grande interesse. Il Rock for You ancora, i quattro successi rock in sequenza senza interruzioni, e poi il momento dedicato al sondaggio della settimana. Come sapete, sul nostro sito internet è presente ogni settimana un sondaggio. Voi potete andare a ascoltare e selezionare poi la band che vi piace di più e contribuirete a farla poi andare in rotation in radio presso la nostra emittente tutta una settimana. Quindi, insomma, una bella promozione per queste band. Devo salutare subito il mio caro collega Simone. Buonasera. Buonasera, buonasera. Io vi do subito allora i nostri contatti. Bene. Partiamo con gli messaggi al 335-5637-251. Ancora Facebook, cercate e aggiungete Rock Revolution. Ancora email diretta @rockrevolution.it e Messenger sempre diretta @rockrevolution.it. Benissimo, avete tutte le coordinate, insomma, sia su Facebook che MSN per poter comunicare con noi, anche volentieri, insomma, fare delle domande alle band che saranno poi ospiti qui in studio. E salutiamo subito, insomma, sapete che su internet adesso poi con questa nuova tecnologia potete anche vederci oltre che ascoltarci. Infatti dal sito crmpradio.it c'è insomma, la possibilità di ascoltare lo streaming e guardare le webcam che dalla regia, insomma, vi passano su internet per seguire proprio dal video anche la nostra puntata e gli artisti che poi suoneranno dal vivo. E quindi è anche interessante, insomma, guardare questa cosa. Saluto alla regia Gianni, buonasera. Alla nostra redazione Ida, anche lei pronta al computer, insomma, va a cercare di raccogliere tutte quelle informazioni più interessanti, le notizie più strane del mondo della musica rock and roll. Siamo praticamente pronti per iniziare questa nuova puntata e quindi ci vuole un momento di raccoglimento per tutti. Inizia un nuovo venerdì sera, inizia Rock Revolution su CRM Happy Radio. Ben trovati, buon rock and roll a tutti quanti, ragazzi. Io del rock, grazie per questa occasione per spaccare. Siamo i tuoi umili servitori, ti prego, dacci il potere di mozzare loro il fiato con il nostro energetico. Nel tuo nome primo. time for Rock Revolution on CRM Happy Radio. Yeah. Come on, babe, get in here. Get your motor running. Hey, down on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Oh, that's beautiful. Yeah, darling, gonna make it happen. Uh-huh. Take the world in a loving ring. Oh, yes. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoke and light. I do too! Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Oh, that's so sweet! Yeah, darling, gonna make it happen. Take the world in a loving race. Oh, Ozzy! Fire all of your guns at once and explode into space. Like it's true, nature's child, we were born. Status Quo, Born to be Wild. E poi questa bellissima canzone di sottofondo, insomma. Bene, siamo arrivati alle 21.30. Dobbiamo subito salutare un po' di amici su internet che ci stanno tenendo compagnia, che ci salutano. E allora, vediamo un po' se me ne ricordo qualcuno. Vabbè, chiaramente salutiamo prima di tutti quanti Max da Milano e la bella Sofia. Auguroni, cara. Speriamo si venga su, insomma, una bella tipetta rock and roll, Max. So che ce la metterai tutta. Salutiamo poi anche un po' di amici. Vediamo Antonio, mi stanno scrivendo dalla redazione. Antonio su Facebook, benissimo. Beh, poi insomma adesso man mano vi andiamo salutando un po' tutti quanti, così siete contenti. Facciamo, Simone, una pausa, che ne pensi? Sì. Poi torniamo sì, con sì, un sì, bel sì, po' sì, di sì. Notizie e dei titoli perlomeno molto interessanti. A fra poco. Se il rock è la tua passione, non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. You need cool air, baby, I'm not fool. With Foo Fighters, This is Monkey Ranch. Che bello sto pezzo, una bella scarica di adrenalina. Allora andiamo a salutare subito un po' di amici, Simone. Sì, ci ha già contattato Christian, che poi è il chitarrista dei To Define, che a breve contatteremo telefonicamente. Insomma, ne approfittiamo per salutare in anticipo questa brillantissima band che a breve andremo a conoscere e che vi presenteremo con tanto piacere. I To Define, non so se poi non ho capito se è To Define o Define. To Define. To Define, perfetto. Poi salutiamo anche, insomma, gli altri amici su Facebook che ci tengono compagnia, come al solito. Insomma, state bravi, mi raccomando, tutta la sera fino a mezzanotte si fa rock and roll su CRMP Radio. Questa base, Gianni, è un po' calda, un po' forse troppo calda, un po' lentina. Effettivamente, sai, quando arrivi tutto carico, no, dal pezzo dei Foo Fighters e poi ti senti questa base qua, ti rilassi, ti fa tornare un attimo il numero di BPM a una quantità, diciamo, sostenibile, ecco. Vabbè, la musica continua su CRM con Rock Revolution e adesso andiamo ad ascoltare uno di quei pezzi, insomma, che questo veramente fatto dal vivo rende parecchio, sai, con i fuochi d'artificio poi sparati sul palco, insomma un bel po' di cose. Adesso dopo di loro andremo a leggere le notizie di questa sera, anche alcune chicche che abbiamo riservato per voi anche quest'oggi a Rock Revolution. Buon ascolto e buon rock and roll. Gonna interagisci con Rock Revolution. SMS 335-5637-251. MSN Messenger. Diretta @ rockrevolution.it. To drink away their gloom, he sat me down and so began the story of a charmless man, educated the expensive way. He knows his claret from his Beaujolais. I think he'd like to have been running cry, but then nature didn't make him that way. Shameless Man con i Blur. Allora, caro Simone, questa sera parliamo di Black Sabbath, mi pare di capire. Sì, quanto aveva dichiarato qualche giorno fa il bassista Geezer Butler, ovvero che la reunion dei Black Sabbath non ci sarebbe potuta essere, ahimè, oggi diventa una conferma. Infatti, smentendo quelli che sono stati poi i rumors degli scorsi mesi, alimentati anche dalle dichiarazioni dello stesso Ozzy Osbourne, il musicista ha specificato che non ci saranno nemmeno un tour o un nuovo album, insomma nulla ancora, nulla. Vabbè, staremo a vedere insomma cosa succede, no? È bello comunque rimanere anche un po' in sospeso riguardo a queste reunion, poi si lasciano, poi si riprendono, insomma. E non ci giocano anche tanto. Infatti. Facciamo un bel saltone indietro nel tempo e andiamo ad ascoltare questa canzone che è veramente, insomma, il top. Parliamo di Bob Dylan con un classicissimo Knocking on Heaven's Door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Venerdì alle 21 su CRM Happy Radio, Rock Revolution. L'appuntamento rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock Revolution è anche su internet all'indirizzo www.rockrevolution.it. Sofa Song, che bella sta canzone, eh? Molto piacevole. Allora, vediamo di metterci in collegamento questa sera con una band veramente tosta. A me piace dirlo perché effettivamente, insomma, tutte le band che partecipano a Rock Evolution sono tosti, però loro in modo particolare ci tengo. Vi do subito il loro indirizzo MySpace, così che possiate andarli ad ascoltare. Poi noi ascolteremo chiaramente un pezzo, però se ne volete di più andate su myspace.com/todefineofficial. Da lì potrete poi ascoltare altra musica. Allora, la formazione ve la dico subito: abbiamo Pedro al basso, Dea alla chitarra, Ile alla voce, alla voce, poi Cree alla chitarra e Dani alla batteria. Abbiamo con noi questa sera da Bologna i To The Fine. Vediamo chi c'è al telefono, pronto? Pronto. Oh, mi pare di parlare con Ilenia. Ilenia, ciao, piacere, buonasera, benvenuta a Rock Revolution. Ciao, grazie mille. Allora, senti, cominciamo subito col parlare delle origini dei To The Fine. Come nasce l'idea di questo progetto? Ma l'idea è nata dai due chitarristi, da Cree e da Dea, che si sono trovati. È giusto dire innanzitutto che il progetto comunque è di Ferrara, perché sì, 3 membri su 5 sono di Ferrara, quindi certo, dobbiamo dire che siamo di Ferrara. Uh-huh. E infatti è partita da loro l'idea, dei due chitarristi, che poi hanno si sono messi d'accordo anche con Pedro, il bassista, e da lì hanno lasciato un annuncio su vari siti a cui ho risposto io e in seguito il batterista. Bene, il tutto è nato l'estate scorsa, quindi siamo abbastanza nuovi. Senti, parlaci un po' della vostra formazione, cosa vi accomuna, cosa invece vi differenzia? Ma ci accomuna la passione per il genere pop rock in italiano, che abbiamo deciso di riprovare questo genere che ci ha sempre appassionato tutti quanti, nonostante veniamo tutti da esperienze diversissime, e abbiamo deciso di provare con questo progetto, con questo nuovo genere che comunque abbiamo sempre ascoltato, ma forse suonato poco ancora. Mm-hmm. Senti, questa musica, se dovreste insomma identificarvi un po' con un genere musicale? Paramore. Assolutamente. Bene, senti, quali sono le band che vi hanno ispirato, oltre ai Paramore chiaramente, o che hanno contribuito alla formazione di questo sound così particolare? Ma sicuramente siamo fan degli Incubus, degli Alter Bridge, dei Linkin Park, dei Carnival, insomma, passiamo molto. Senti, c'è una band italiana attuale, insomma, che vi sentite di consigliare ai nostri ascoltatori? Noi facciamo sempre questa domanda perché è bello, insomma, collaborare fra artisti. E quindi c'è una band che vi sentite, ti senti, insomma, di consigliarci? Ma ti dico che noi abbiamo ascoltato anche in sala prove, che comunque sono band che sicuramente apprezziamo, posso dire i Verdena, i Negramaro, ce ne sono diverse, devo dire, poi noi piacciono molto anche Nicolò Fabi, cioè, sinceramente spaziamo molto come gusti e generi, quindi... Certo, certo. Sicuramente. Senti, i big italiani sono tutti da tenere presenti in considerazione, assolutamente. La musica italiana deve essere sempre tenuta bene in alto nelle mani. Avete registrato, stavo leggendo questa notizia, All Animal House, studio di Ferrara, il vostro primo singolo, che si chiamava Day by Day. Ce ne vuoi parlare? Ma sì, perché l'idea era iniziata con il classico inglese. Sì. E quindi il primo pezzo sfornato aveva il testo in inglese e ci stavamo proponendo così. Poi fortunatamente, ti dirò, ci è venuta l'idea di pensarla all'italiana, perché no, è la nostra lingua, è dove viviamo. Da lì abbiamo riscritto tutti i pezzi che avevamo già scritto in inglese, in italiano. Ma tu hai comunque quindi una preferenza, diciamo, per l'inglese nella scrittura dei pezzi, mi pare di capire. Ma non è preferenza, è abitudine. Devo essere sincera, è che da quando avevo 16 anni alla fine è sempre andata di moda l'inglese, si può dire così. E certo. Quindi io sono nata come scrittrice, cantante in inglese, però insomma è già da 2 anni che mi metto in gioco con l'italiano e da tantissime soddisfazioni, quindi sono ben felice di questa scelta. Bene, senti, a quando l'uscita dell'album? Sai, ci si dà sempre una data e poi si arriva sempre un po' lunghi. Direi che fra un mesetto ce la possiamo fare. Ok, dove troveremo l'album? Ma l'album adesso dobbiamo ancora pensare bene a come distribuirlo, però sicuramente innanzitutto se si tengono tutti informati sul nostro Facebook, sul nostro MySpace, sono i siti ufficiali che teniamo sempre aggiornati. Sì. Vedremo sicuramente delle distribuzioni online, visto che c'è questa moda. Certo, e va tanto. Certo. Assolutamente, assolutamente. Senti, quali sono invece i vostri prossimi appuntamenti? Indica ai nostri ascoltatori dove potranno ascoltarvi prossimamente. Noi abbiamo ascoltatori anche molti dalle vostre parti, quindi quali occasione migliore per incontrarli? Ma guarda, il chitarrista Cri è in contatto con svariati locali, ancora non ci ha forniti dell'agenda del gruppo, però insomma anche sul MySpace, esatto, sul MySpace pubblicheremo sicuramente gli eventi. Benissimo, allora lo ricordiamo ancora una volta, visto che è così importante, www.myspace.com/todefineofficial, lì potete trovare insomma informazioni sul loro nuovo album e poi anche dove poterli ascoltare dal vivo. Ilenia, ti ringrazio tantissimo, grandissimo in bocca al lupo e tanti complimenti a tutti quanti noi, e speriamo di grazie sentirci presto anche per il prossimo album, va bene? Grazie, complimenti per la trasmissione. Troppo grazie gentile, tante. Buona serata, ciao. Ciao a te, ciao. E quindi adesso andiamo ad ascoltare questo pezzo fantastico, ragazzi, mamma mia che bello. To the Fine, da Ferrara. Sono corretto stavolta, non ho detto Bologna. Sono questi riff, sono veramente molto belli, ragazzi. A noi piace questa musica, molto ritmata. È bello, insomma, quando sono le band emergenti, si ascolta la musica nuova. Musica rock, chiaramente. Eh sì, questo è Rock Revolution, su CRMP Radio, anche questo venerdì sera vi teniamo compagnia con il grande rock, la musica migliore di tutti i tempi, nuova, ma anche i classici del rock. Per ben 3 ore alla settimana, insomma, speriamo possa bastarvi per tutta la settimana questa dose di rock. Interagite con noi, siamo online, lo sapete bene, i vari modi. Adesso è To The Fine, indelebile. Indelebile, la sensazione che nel tuo lavoro tu sia il più debole, immerso nell'ipocrisia. devo fare? Si distrae, ragazzo, si distrae. Allora, salutiamo un po' gli amici su Facebook, ci stanno seguendo. Claudia, sono una fan accanita di Rock Revolution, potreste farmi un saluto? L'abbiamo fatto, contenta? Salutiamo anche Luca e Daniele che ci ascoltano a Santo Stefano, lì anche lì c'è la pioggia, ci dicono piove a dirotto. Vabbè ragazzi, ogni tanto, insomma, gli ultimi colpi. Facciamo una piccola pausa adesso, la pubblicità, e poi torniamo con voi con il Rock for You, i quattro successi rock più belli di tutti i tempi, in sequenza mixata, senza interruzioni. A dopo. Rock è la tua passione. Wow! Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Se il rock è la tua passione, wow! Non mancare all'appuntamento di ogni venerdì alle 21 su CRM con Rock Revolution, il programma rock di CRM con ospiti, interviste e speciali su artisti emergenti e sui big del mondo della musica nazionale e internazionale. Rock for You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. fortunate one. Oh, yeah, it was like lightning. Everybody was frightening. And the music was soothing. For You, quattro successi rock in sequenza senza interruzioni. Get you to run it. Head out on a highway. Are You, il miglior rock di tutti i tempi, in sequenza mixata. For You, 4 successi rock in sequenza, senza interruzioni. Bye. Questo era il Rock for You, 4 successi rock in sequenza, senza interruzioni, come avete sentito, insomma, grandi classici della musica rock and roll. E c'erano quei ragazzi dell'ex che già stavano accordando gli strumenti, insomma, si stavano scaldando un pochettino per adesso iniziare questa bella intervista, eh? Iniziamola quindi. Ladies and gentlemen, Rock Revolution ha il piacere di presentare gli ospiti della settimana. È proprio così, abbiamo proprio il piacere di presentarli, che sono veramente molto forti. Loro sono i Licks da Palermo. Buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Allora, riepilogando, abbiamo Vincenzo Matassa alla voce. Poi presente. Andrea Nocifora, Riff Master. Nocifora, hai ragione. Riff Master. Poi, ma perché non mettevi chitarrista? Ma perché non l'ho scritto io? Ah, ecco, ok. Poi c'è Gian Lorenzo Mungiovino, perdonatemi. Ho detto bene? Perfetto. E poi Manuel Bellone al basso, Mungiovino alla chitarra e Andrea Rechires, che stasera non è con noi, che è la batteria. Lo salutiamo. È morto. Allora ragazzi, arrivano subito. Guarda che bello, quando muove il tavolino si sentono anche i sonagli. Allora salutiamo un po' gli amici che vi stanno facendo i complimenti su internet. C'è questo Davide che salutiamo, dice bei capelli. Sicuramente non si riferisce a me. E poi insomma altri amici che adesso pian piano andremo a salutare. Iniziamo subito con l'intervista di questa settimana con i Licks, che noi abbiamo conosciuto dal loro MySpace, che ricordiamo è www.myspace.com/licksband. Allora, per chi ancora non vi conosce bene, descrivete brevemente il vostro percorso artistico musicale, sia come singoli musicisti sia come gruppo. Allora, purtroppo, per fortuna, il nostro percorso artistico è stato vissuto interamente insieme. Perché purtroppo, per fortuna, aggiungo che siamo tutti amici di ormai vecchissima data, delle vecchie mogli, delle vecchie mogli, quindi... Niente, a un certo punto, sai, quando hai 15 anni o inizi a giocare a calcetto oppure cominci a suonare. Siccome nessuno di noi sa giocare a calcetto O rubare motorini, ci abbiamo provato ma con scarsi risultati. Niente, abbiamo detto iniziamo a suonare. E tutto ciò ci ha portato a iniziare a suonare e continuare per circa 8 anni. Ecco, io insomma ho studiato attentamente il vostro sito internet, anche il vostro MySpace, licksband.com. Il MySpace l'abbiamo già ricordato. E sono rimasto davvero di stucco, perché poi fate un genere musicale, un rock, che non è molto comune dalle nostre parti, cioè dovrebbe esserlo in realtà, però non è così. Ma piano piano in Sicilia sta nascendo un movimento rock piuttosto florido, diciamo. Piano piano le nostre coscienze si stanno risvegliando e sta uscendo un po' di rock dalla Sicilia. Oltre a noi ci sono tantissimi altri gruppi a Palermo, nel circondario. Che insomma si fanno sentire anche nella nazione. Comunque, che cosa stavamo dicendo? Me lo sono dimenticato. Troppa serietà. Andrea Cifora ha detto Alzheimer. Detto Alzheimer. 2K, vado a 2K. Sentite, da dove attingete, o meglio, quali sono i generi degli artisti a cui vi ispirate? Io vi ho sentiti e quindi so bene, però ditelo voi per chi ancora non vi conosce. Allora, noi purtroppo iniziamo con... O per fortuna. È sempre una costante nella nostra vita, il purtroppo per fortuna. Iniziamo come una cover band degli Stones, quindi... vuoi non vuoi, quando abbiamo iniziato a fare i nostri pezzi siamo stati molto influenzati. Abbiamo pucciato tantissimo. Pucciato il biscotto. Però è ovvio che tutti gli anni 70, cioè ascende, diciamo dagli anni 70 agli anni 50, che noi non c'eravamo comunque. Sì, tutti quelli che urlavano, quindi che ne so, gli Stones, Jerry Lee Lewis, i Kings, i Beatles, i Claudio Villa, il Claudio Villa, relatore dei Baglioni. Baglioni forse non gridava tanto, però sussurrava i cavalli. Io l'ho visto gridare quando gli cadde il pianoforte. Tempo fa, 1986. Allora, voi vi avete portato questa sera da farci ascoltare due bei pezzi registrati in studio, e poi suonerete per noi invece altri due pezzi in versione acustica. Questo ci fa molto piacere e siamo proprio curiosi, quindi andare ad ascoltare il primo pezzo di questa sera. Si intitola Busy Job, giusto? Busy Job. Rock and roll su CRM con Rock Revolution. Questo è un pezzo veramente tosto, a me piace da impazzire, eh? Sono i Licks da Palermo, faranno strada questi ragazzoni, faranno strada, ve lo dice il vecchio Phil. Oh, stavamo parlando con i ragazzi in off air, appunto, di quella che è la scena musicale italiana, siciliana, e giustamente, insomma, che mi stavate dicendo? Che c'è un problema di comunicazione alla base. C'è un problema di comunicazione, forse in mezzo ci sono le Madonie, i Peloritani, non si sa. A un certo punto la comunicazione... Non amiamo parlarci, sì, tra di noi, ci abbotta. Cioè, ci sono tantissime band che forse fuori dalla Sicilia, siciliane, sono molto più conosciute e poi non riescono a essere profeti in patria. Quindi definite la scena musicale italiana da 1 a 10 come livello di... Italiana o siciliana? Iniziamo con quella siciliana. La scena siciliana è molto, molto florida, quasi California, 8. Diciamo 9. 8. Vabbè, 8 e mezzo. 8 e mezzo. 8 e mezzo. La scena italiana, a mio modesto avviso, ha preso una piega che a me non fa impazzire. Diciamo, nel senso, in toto, che cosa intendi? In cosa intendi? Una piega underground, volutamente underground e forzata. La ricerca dell'underground per moda e non per... Strambo per essere strambo, bravissimo, tutte queste quello cose. Quello che poi qua è diverso, alla fine diventerà per non essere più diverso. Benissimo. Sarà la cosa normale. Effettivamente è così, devo darvi ragione. Sentite, è difficile secondo voi trovare spazi per poter suonare? Allora, c'è un problema di comunicazione, e questo è uno. Dal punto di vista degli spazi, invece, per le band emergenti, per le band che fanno musica inedita, come siamo messi secondo voi? No, io non mi so. Secondo me, per la nostra esperienza, noi non abbiamo mai avuto grossi problemi nell'esibirci nella nostra città o anche fuori, nella Sicilia, insomma, per quanto riguarda i locali oppure gli eventi. Questo io... Certo, magari certe volte sei dentro un locale che è disgustoso e si sente malissimo, però i locali ci sono. Ma sai, più che altro i locali ci sono per esserci. È la gestione in la toto, gestione è poi un altro, esatto, un altro aspetto. Perché è facilissimo suonare in un locale. Più difficile fare il musicista in un locale che e farsi pagare senza rompere niente. Eh sì, questa purtroppo è una cosa che conosciamo bene, però insomma si dice che sono tempi di crisi. Non so se poi effettivamente in passato, quando non c'era la crisi, i gruppi venivano presi in considerazione. Sì, a Palermo prima, per un fatto politico, culturale piuttosto complesso che non stiamo qui a snocciolare perché non è il caso. Comunque nel decennio passato, diciamo negli anni 90, si suonava molto di più e si guadagnava molto di più rispetto ad oggi. C'è da chiedersi come mai, insomma, non sono venute fuori delle band un po' più forti, no? Anche se comunque cresciute in questo contesto un po' più facile. Ma sai, guarda, nel dopoguerra, quindi anni 50, 60, arrivarono tutte le band che adesso adoriamo. Sì. In un periodo florido, forse ci si è cullati troppo sugli allori, quindi adesso si è arrivati alla crisi e stanno uscendo le band che dicono va bene, allora facciamo musica vera e vediamo di uscire. Beh, in realtà è anche una situazione ideale anche questa, perché di solito il rock, insomma, è dare una risposta, a farsi una domanda. Il rock è una rabbia di rabbia, noia, tutto quello che c'è di cattivo, noioso e che ti fa storcere la faccia. Diciamo che è rock and roll. Che c'è? Quindi ci sono le basi e voi rock and roll lo fate la veramente bonizia. Molto bene. Va bene, facciamo un primo pezzo dal vivo. Che cosa ci fate ascoltare? Faremo Spreading the Highway. E parla di un accenno. Allora, è un classico pezzo così molto, molto easy. Parla della storia d'amore ricercata per anni, che non si è mai riuscito a raggiungere fin quando non ci si mette il cuore in pace, insomma. Bene, siamo proprio curiosi di ascoltarla. Ed è una canzone nuovissima. Abbiamo deciso questa sera che bello, di suonare grazie delle canzoni che non avevamo mai fatto. Bene, bene, un bel regalo. Ci siamo inaugurati. Allora, Live and Plug per Rock Revolution questa sera, il Lix, buon ascolto. If you know you gotta stay with me, I'm gonna offer you a cheap solution. I tried so hard to give my love for free, but you ain't given no devolution, no. If I'm cold and I can't stand no more, out in the rain without a shelter for me, so did my heart is in the house post wood. A pile of holes is done by the same on my key. I spent my life just running round and round and round. Better highway, better highway. I spent my life in search for obey mine. Well, you in the arms of another guy, and And all I have to say is bye bye, baby, bye. Riding on the highway, riding on the highway, bye bye. Top of cold and I can stand no more. Out in the rain without a shelter for me. So damn, my heart is in the houseboat's roar. That pile of holes, you damn by dead, same on my key. I spent my life just running around, around, around. Oh, I spent my life in search for hope and mine. Well, you know, in the hands of another guy, I have to say bye bye, baby, bye. My life just running round and round and round. I spent my life in search for what would be mine. You know your handy arms over another guy. I have to say bye bye, baby, bye bye bye. Che bella sta canzone, ragazzi, eh? Complimentoni, complimentoni. Allora, salutiamo gli amici che su internet vi stanno salutando e ascoltando, sono vero tanti. Poi li salutiamo pian piano tutti quanti, non ce ne vogliate. Dobbiamo andare avanti con l'intervista. Oh, sono tempi radiofonici, dobbiamo andare avanti. Allora, ragazzi, parliamo un po' di rapporti con gli altri gruppi palermitani. Ecco, so che questo è un tasto dolente. Radio CRM, quanti avvocati ha? E pochini, pochini. Non abbiamo avuto per fortuna mai la necessità di averli. Senti, come sono appunto questi rapporti? Cioè, andate d'accordo? C'è un po' di invidia fra le band? Allora, personalmente i rapporti sono noi di Liaci, quasi di più. Musicalmente sappiamo bene che è una guerra tra poveri, insomma. Mm-hmm. Quindi, sai, a volte capita quella spiacevole situazione in cui sei amici nella vita normale, ma quando si diventa musicisti è una faida, una... Però... Sì, no, la situazione è, la situazione è molto variegata, varia, è molto fresca, come sì, fosse in due, diciamo, come prematurata. Sicuramente è prematurata perché non ha perso i contatti con l'esterno. Cioè, aspetta, c'era l'altro componente che è Manuel Bellone al bar. Manuel Bellone. Manuel, allora, che stavi dicendo, Carlo? Loro non toccano noi, noi non tocchiamo loro. Okay. Però se ogni tanto ci si toccano, ci tocchiamo, a Palermo ci tocchiamo tanto. Carezze, carezze affettuose. Sentite, secondo voi in questi anni, insomma, è difficile che un gruppo rock, una band rock possa diventare famosa, comunque farsi conoscere almeno nella propria regione, al di là di questi problemi di comunicazione, di nebro, di madonia. E che requisiti secondo voi deve avere una band per poter sfondare? Beh, intanto il rock è qualcosa di ciclico, che è, diceva John Lennon che un giorno il rock and roll sarà più famoso di Gesù. Mm-hmm. Quindi ricordiamo, ormai il rock è un classico e come sì, sappiamo nella storia il classico ritorna a intervalli irregolari. Quindi non è difficile Proporre il rock, perché è una cosa bella. Poi tu puoi fare tantissimi altri generi che sono sperimentali di qua e di là, però il rock ormai, diciamo, ha trovato la sua collocazione, è obiettivamente bello. Cioè non puoi dire noi siamo no d'accordo. Però ormai devi fare l'aus perché è il tempo dell'aus. No, lo farei. È giusto. Ma ci sono dei classici, insomma, rock. Noi stasera, ad esempio, se non erro, dovremmo avere anche qualche bella canzone di Bob Dylan, anche di un artista che adesso non mi viene il nome, però ha fatto una bella canzone, un buco di memoria, vabbè, poi mi informo. Ha fatto Personal Jimmy Cash, mi pare, sì. Johnny Cash, c'è anche un bel pezzo stasera che ascolteremo, che è Personal Jesus, di, insomma, la prima versione vera, molto la prima bello canzone con questa voce caldissima, profonda. Insomma, questa è, secondo me, la musica che bisognerebbe ascoltare. Non soltanto quella, anche la musica nuova, chiaramente, però, insomma, dare forse anche un po' più di spazio a questa musica che esiste e che è parte storica della nostra cultura. Sì. Anche non effettivamente la nostra cultura, perché noi ci siamo arrivati per vie traverse dagli americani. Ma sai, però... è tutta una questione di melting pot, di unione di razze. Alla fine gli americani ci sono arrivati grazie agli africani. noi siamo cresciuti con gli africani, quindi sai, la culla della civiltà è quella, quindi insomma alla certo, fine, gli americani se non c'eravamo noi a quest'ora voi l'hamburger non ve lo mangiavate. Ma anche perché l'hanno fatto in Germania, anche perché gli americani siamo noi. Vabbè, c'era il panino con la mensa, comunque non ci andava poi tanto male. Sentite, andiamo ad ascoltare il secondo pezzo di questa sera registrato in studio, che si intitola Feeling Back Home, e ne parliamo fra un pochino dopo averlo ascoltato. Il Leaks su CRM con Rock Revolution, buon ascolto. Filled by memories. Somewhere in darkness, God, I know I find myself so cold and torn. A living fire, the war against my nightmares. Times I walked alone in the shadows. I lost myself and then got up again. So many streets I walked alone. The rain has gone and I'm so strong. I live on fire, the world against my nightmares. Dovremmo ascoltarlo tutto quanto, questo effettivamente da solo, Ci sta, ci sta. Il Leaks da Palermo, Rock Revolution. Abbiamo il piacere di averli con noi in studio, come potete ben vedere da internet. Allora, vediamo un po', c'è anche un messaggio che arriva, lo salutiamo. Davide, è sempre lui che non molla. I requisiti fondamentali per sfondare sono essere il Leaks. Che bel complimento, Peccato che noi non lo sapevamo, perché ancora non abbiamo siamo riusciti a sfondare. Non avevamo idea, quindi. Se non le porte delle nostre ora che lo sappiamo. Sentite, una domanda che insomma che ci piace fare sempre, facciamo, è come nasce una canzone. Adesso ce lo dico. Interessantissima perché, domanda. Ecco. Perché è una cosa soggettiva. Sì. C'è ogni... tra virgolette artista, noi non siamo artisti, siamo degli scarpari, dei musicanti. Ah, vi buttate giù, no? Cioè, ognuno ha un suo modo di approcciarsi alla cosa. Dicevo che le canzoni spuntano dal nulla e bisogna anche sfatare il mito che ci siano due persone che compongono in un gruppo, come ad esempio ci fanno credere i credit dei dischi. Vi stavo chiedendo proprio questo, ad esempio, non è vero che Jagger, Richards oppure Lennon, McCartney oppure Tizio, Caio e Sempronio. Stalli in realtà le canzoni sono una cosa molto, molto strana. Possono nascere principalmente da una persona, però poi quando le vai a condividere, lì veramente sboccia la canzone. Certo, certo. È un lavoro di gruppo, è un sentimento comune che si sviluppa tra le persone. Ebbene, cioè proprio qualche giorno fa guardavamo il film School of Rock con John Black, non so se vi è capitato di vederlo, molto simpatico. Senti che bello quando sbatto questa qui, Simone poi mi sgrida perché praticamente con la webcam che noi stiamo registrando anche l'intervista, che potrete vedere sul sito rockrevolution.it, quindi dando i pugni sul tavolo trema tutta la videocamera ed è bello anche come effetto, proprio sai quando vibrano nei video si vede. Ebbene, allora, fregnaccia a parte, pensate di mantenere inalterato il vostro genere in futuro oppure avete in mente, che ne so, qualche trasformazione, vi mettete a fare death metal? Non ma lo so. Guarda, se domani mattina ci proponessero di sfondare nel mondo della musica con della house, io mi metterò un cappellino al contrario e sarei in discoteca. Assolutamente sì. Io sul madrigale vorrei andare. Giorgi, tu su che cosa vorresti andare? Ma io sulla musica vocale del 600. La gregoriana. Bella. Bravo. Sentiamo che il bassista a sto punto così. La pop art. Lui vuole. Vabbè, insomma, avete un futuro, eh? Continuo così, mi sa. Da Zelig probabilmente. Infatti. Sentite, allora parliamo un po' di concerti, appuntamenti dal vivo, contest, cosa avete in programma prossimamente? Per ora abbiamo così tanta roba che ce la siamo dimenticata, no? Allora, il 5 marzo dicono alla regia che suoneremo a San Cataldo al Muddy Waters Ballroom Crab. Ah, Caltanissetta, bene. Caltanissetta. Poi la settimana dopo a Enna, in un posto chiamato Fico d'India. E io non lo sapevo. Sì, si seppe oggi. È bello assistere alle trasmissioni radiofoniche in anteprima. Poi, il 25, notizia così fresca. Stupendo, 25, dovete esserci. Dovete esserci, siateci. Suoneremo per le semifinali di Italia Wave al Teatro Montevergini, sito in Palermo, via Montevergini. Stupendo, precisissimo, stupendo. Perfetto. Insomma, siamo. Invece per quanto riguarda un album... Ma quando troviamo qualcuno che ce lo paga, poi lo fa, poi forse ci dai oppure soldi. Oppure quando troviamo come pagarcelo. Ecco, allora c'è un annuncio da fare, ragazzi. Si cercano produttori per i leaks. Ad Arcore arriva questa. Mi sa proprio di no. Mandatelo ad Arcore. Ma non ci vogliamo neanche arrivare. Anche solo soldi, parole e opere, per favore. Ma c'è tanta spazzatura al Napoli da togliere ancora. Ci sono delle priorità, a parte, senza niente togliere, chiaramente. A voi, va bene, ragazzi, vi ringrazio, siete fortissimi. Speriamo di incontrarci di nuovo per presentare, chi lo sa, questo bell'album che dopo questo annuncio viene fuori. Faremo un bel doppio. No, dai, in realtà verrà fuori. Già abbiamo un po' di idee. Non si sa da dove. Non si sa come verrà fuori. Va benissimo, vi ringraziamo, vi facciamo un grandissimo in bocca al lupo. E ci sentiamo, insomma, ci aggiorniamo su tutto quello che riguarda il futuro dei Leaks. Grazie. Perfetto. Buonasera. Grazie ragazzi, alla prossima. Rock Revolution continua a questo punto con due brani in sequenza e questo è un classico, sono i Green Day con Basket Case. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink. Bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and buds. It's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Control. So I better hold on. grande rock è su CRM Happy Radio con Rock Revolution. Diamoci sotto come dei tagli. Due brani in sequenza. Allora, arrivano tantissimi messaggi. Io veramente dovrei andare a prendere i ragazzi. Adesso dobbiamo vedere se sono ancora in radio. Sono già andati via. Arrivano una marea di messaggi perché vogliono ancora i leaks. È una cosa che non abbiamo fatto mai. In realtà, sì, perché insomma hanno riscosso questo successo inaspettato. Vediamo cosa possiamo fare. Non vi garantiamo niente. Adesso cercheremo in qualche modo di recuperarli e vediamo di portarli di nuovo in radio. Nel frattempo andiamo ad ascoltare un grandissimo pezzo del passato, un grande classico. Loro sono quelli che si truccano e si vestono un po' strani, Non so se avete mai visto qualche video. Stiamo parlando dei Kiss. Yes I Know, Nobody's Perfect su CRM con Rock Revolution anche questo venerdì sera. Il rock and roll. Buon ascolto, rock on! Yeah! I'm gonna strike while the iron's hot. Like Ebbene ragazzi, cari amici su internet, vi facciamo sempre contenti, non dite il contrario. Siamo riusciti, li abbiamo recuperati, erano sulle scale, anzi in balcone, a fumarsi la sigaretta dopo l'esibizione, che ci sta sempre, però non fumate perché fa male. È come nei grandi concerti, quando poi finisce la band di esibirsi, ci sono gli applausi e poi fuori, fuori, fuori. Anche in questo caso è successo, però su internet, non in audio, diciamo così. E quindi abbiamo il piacere di avere di nuovo qui. Ragazzi, è passato tanto tempo da quando ci siamo visti. Sì. Siete finalmente di nuovo con noi, che bella cosa. Noi già eravamo arrivati circa a Trabì, abbiamo dovuto fare un'inversione di marcia in autostrada con la pioggia. Ecco, tra l'altro, insomma, dalle nostre parti in questo momento c'è un tempo davvero pessimo, sta piovendo, quindi occhio, se state guidando andate piano e non vi fate male. Che c'ho gli autovelox, l'ultima volta. Palermo, Messina. Code. Infatti, sentite, allora, visto insomma che c'è questa richiesta su internet, mi è sembrato carino queste copiose richieste accontentare il pubblico e farvi fare un altro pezzo, eh? Ma sì, questo è solo per il pubblico e si chiama, in realtà è un altro pezzo nuovo che non si trova nel disco. È un pezzo che non esiste, in realtà. È un pezzo che non esiste neanche alle nostre menti, infatti non sappiamo in che nota è. E si chiama Make esatto. Up Your Mind. I Leaks da Palermo tornano a Rock Revolution. Cioè, sistemati uscire via. About. I don't need your truth right now. What's it say? Need some action, need no hesitation. Living on the edge, just the way she like it, baby. She say I was wrong, babe. What's it say? Not the kind of man she wants. What's it say? Need some action, need no hesitation. All I got to say. Yeah, it's pretty, baby. Make up your mind. Make up your mind. Baby, baby. Crazy, crazy. Baby, sure you're gonna be fine. No, no, no, no. Baby, baby. Crazy, crazy. Baby, I'm gonna make up your mind. Baby, baby. Crazy, crazy. No. All I got to say is pretty, baby. Make up your mind. Make up your mind. Baby, baby. Crazy, crazy. Baby, sure you're gonna be fine. No, no, no, no, no, baby. Baby, crazy, crazy. Baby, I'm gonna make up your mind. Baby, baby. Crazy, crazy. Baby, sure you're gonna be fine. I was wrong, now you're gone. I'm on the beat, it's gotta be show, babe. What do you say? About too late. All I got to say. It's pretty, baby. Make up your mind. Make up your mind, baby, baby. Crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy, crazy. Gonna baby, baby, baby, crazy, baby. Gonna make her your man, no, no, baby, baby, crazy, no, no, no, no, no, no. Complimentoni, complimentoni. Che bello sto pezzo, eh. Sentite, io siccome mi arrivano altri messaggi, non so più come fermare sti ragazzi che su internet centralino vi scrivono, e mi sento di fare una cosa che non me ne vogliate, però non è anche questa usuale, però insomma vi chiedo di fare un pezzo a piacere. Ecco, silenzio, perché volevo mettervi alla prova con questa sorpresa. Un pezzo a piacere, tipo domandarvi. Quando a scuola ti dicono: ah, il tema a piacere. Tu dici: ah, l'ho fatto a casa ma non l'ho scritto, lo so a memoria. Un pezzo che non si è mai sentito. Un pezzo che non si è mai sentito nella versione dei Leaks. Siccome è un pezzo a piacere, noi faremo una grande cover del rock and roll, del king, del true king of rock and roll, cioè Chuck Berry. Sì. Questo pezzo lo annuncia Manuel Bellone e si chiama? Si chiama Route 66. Bello, un bel viaggio in America con il Leaks. Un pollo. Una cosa improvvisata, ragazzi. Well, if you have a plan to motor west, got the highway to Kamaui, that's the best. Got your kicks on Route 66. Well, winds from Chicago to LA. Well, fine, never try to get my way. Get your kicks on Route 66. And you can go back to St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City, look oh so pretty if you see Amarillo, Cali, New Mexico, blacks of Arizona, don't forget we know not Kingston, Russo, San Bernardino. If you get a hips to this kind of trip, and take just California if get your kicks on Route 66. Come on, man. Back to St. Louis, down to Missouri, Oklahoma City, look oh so pretty to see Amarillo, Gallup, New Mexico, blacks of Arizona, don't forget when on our Keystone, Russo, San Bernardino. If you got hips to this country tree, and go take this California here. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. Il Leaks da Palermo, ragazzi, grazie davvero ancora, complimentoni, complimenti anche a questo pezzo improvviso, insomma è stata una bella esperienza. Un bacio a Chuck Berry e a tutti i nostri fans che ci hanno scritti copiosi. Bene, bene, grazie e buon ritorno a Palermo, ragazzi, la musica continua su CRM con Rock Revolution con due brani in sequenza, avete riconosciuto, eh? Bello. Abbiamo ancora un'oretta da trascorrere con noi, avete un'oretta da trascorrere con noi? Rock Revolution! We'll be right back. Ci siete andati giù duri, gente. E io sono fiero di ognuno di voi, anche del più negato. Quindi cerchiamo solo di mettercela tutta. Magari ci sbatteremo la faccia. Ma anche ammesso, l'avremo sbattuta con dignità. Con una chitarra nella mano e il rock nei nostri cuori. E come dicono gli ACDC, la nostra chitarra a chi stasera morde e a chi sta per fare rock, io rendo onore. Due brani in sequenza, gli ultimi sentite ancora, davvero molto tosti. Siamo arrivati alle 23:14 minuti, siamo quasi, abbiamo sorpassato ormai la seconda ora di Rock Revolution, ci accingiamo ad arrivare alla terza ora. Che belle novità quest'anno, Rock Revolution, 3 ore di rock and roll ogni fine settimana. Allora Simone, andiamo a leggere un po' di notizie curiose. Guarda caso torniamo a parlare ancora di Oasis, o meglio di Liam Gallagher. Eh sì, prima o poi ci dobbiamo tornare sempre a una telenovela. Cos'è successo detto. Stavolta? Cos'è successo? Insomma, non che appunto Liam Gallagher, una sua nuova dichiarazione, appunto quella che una reunion degli Oasis è quantomeno impossibile. Anche perché Noel è un beep bugiardo, la censuriamo, dai. Hai capito. Allora, non che in merito comunque le sue opinioni fossero mai state ambigue, anzi Gallagher non si è mai preoccupato di nascondere l'astio che cova per suo fratello Noel e comunque l'insofferenza per il passato trascorso con gli Oasis. Sofferenza addirittura. Sì, molto sofferenza. Queste dichiarazioni rilasciate oggi dal minore dei due fratelli tuttavia sembrano posare definitivamente una lapide sulla carriera del gruppo, sì. Che insieme a Blair e pochi altri fece deflagrare il fenomeno del Britpop negli anni 90, insomma, che tutti conosciamo bene. Appunto, a una domanda su una reunion degli Oasis, Liam ha assicurato: questa non è una pausa destinata a durare finché io e mio fratello faremo la pace. La carriera degli Oasis è finita definitivamente. Bah. E a proposito di Noel, che subito dopo la sua dipartita parlò di una mancanza di supporto e di comprensione da parte del man, insomma, tante storie. Lo guardo adesso e non posso che pensare: sei un fottuto bugiardo. Ci sta, dobbiamo dirlo. Insomma, l'amore fraterno regna sovrano fra questi bello. Due. Nella famiglia Gallagher, insomma, ne dice tutti i colori a suo fratello, precisando alla fine che nei set dei BD High, che è il nuovo gruppo fondato da Liam, non verrà inserita alcuna canzone degli Oasis. Insomma, parla con sincerità, questo non lo possiamo di certo nascondere. Infatti, Liam Gallagher. Infatti, sembra quasi una soap opera questa degli Oasis con Liam Gallagher, insomma, ha deciso di percorrere questa strada da solista. Noi siamo contenti perché insomma gli auguriamo di far carriera comunque. Bella musica, la musica nuova è sempre benvenuta a Rock Revolution, ma anche la nostra emittente CRM è sempre molto attenta alla musica emergente e la musica nuova. Adesso devo dirlo, effettivamente questo è un pezzo che ho scelto io e sapete, la notte quando si sa che fare si va ad ascoltare un po' di musica, e questo è il nuovo album di Marilyn Manson, vero, un gran fottuto bastardo, dobbiamo dirlo. From America. Questo si intitola We're From America. Dovete guardare il video, veramente tostissimo. Buon ascolto, questo è Rock Revolution su CRM P Radio. Venerdì Rock, la tua radio, CRM. Buon ascolto. We know that we're fucked.

abbiamo anche tanto di articolone su Rolling Stones che parla di Liam Gallagher. Ci sono poi voci contrastanti riguardo la pronuncia di questo nome. Tu come lo dici? Io Liam. Lo sentivo dire così e lo ripropongo così. Che poi tra l'altro, insomma, c'è anche da dire una cosa: che in America, in inglese, insomma, si tende anche un po' a trasformare le I, le A in E. Sì, le pronunce quindi anche variano molto in base anche alle zone, alle province, insomma. Infatti, allora c'è proprio una bella notizia adesso che arriva dall'Inghilterra, e parliamo dei Radiohead, che a quanto pare sono pronti con un nuovo album disponibile che si intitola The Kings of Lamps. Sì, pubblicato proprio oggi, anticipato di un giorno da quella che era, diciamo, la data ufficiale annunciata qualche mese fa. Insomma, chi aveva dunque già ordinato il disco tramite il sito della band, che è The King of, del sito dell'album più che altro, sì, thekingoflimps.com, può acquistarlo già oggi, oppure se l'ha già fatto in prevendita può andare nel sito e potrà appunto richiedere l'invio del disco. Tra l'altro la band di Tom York ha già diffuso online un videoclip su una nuova canzone che si intitola Lotus Flower, che potete vedere insomma già su YouTube o sul sito stesso dei Radiohead. Benissimo, quindi siamo in attesa di andare a percepire insomma questo sound nuovo dei Radiohead, che è molto bello, insomma, noi fa sempre piacere ascoltarli. E andiamo invece adesso a parlare di band storiche come ad esempio quella che inizia con questo solo del grande Slash. Mamma mia che bella, eh? Rock Revolution, siamo arrivati alle 23:31, ho ancora mezz'ora da passare in nostra compagnia, poi la replica anche domenica sera dalle 21 a mezzanotte, il podcast che trovate come sempre puntuale sul nostro sito rockrevolution.it, e poi chiaramente se avete piacere andate anche a guardare poi i video, le fotografie che abbiamo fatto stasera per l'intervista con il Lix, che è sempre insomma carino da fare. Potete guardare il video quando vi pare o ascoltare anche la nostra puntata in podcast, scaricarla o ascoltarla direttamente online. Insomma, ormai ve lo diciamo tante volte, dovreste aver imparato abbastanza bene. Yeah. alza il calice del rock. È un brindisi a chi vive il rock. Ora sorridi, fai di sì con la testa e fammi vedere le pupille dilatate di chi ha visto chissà che. Sì! Rock Revolution, molto rock. ACDC, mamma mia ragazzi. L'uomo dai pantaloncini più belli del mondo, secondo me, questo qua. Ancora 20 minuti da trascorrere in compagnia di Rock Revolution questa sera su CRM P Radio. E un altro venerdì sera, qui sta piovendo di brutto, dobbiamo dirlo. Dov'era un tempo pessimo. Arriva una canzone adatta, secondo me, ecco, questo ambiente piovoso e umido. Sì, anche quello, effettivamente, sì. Stiamo parlando dei Radiohead. Questo è Rock Revolution su CRM. this is what you get when you mess with us. Isn't the love of a hero, and that's why I fear it. effettivamente, insomma, stavamo parlando del fatto che assomigliano molto a Nickelback. Ora mi chiedo, sarà ad esempio un errore, boh, del computer? Sapete, insomma, la tecnologia fa ogni tanto degli scherzetti. Parlavamo in settimana, quando ho sostituito il buon Roby in On The Road, del fatto che ormai, insomma, tecnologia è affidabile, ma fino a un certo punto, perché certe volte viene anche voglia di prendere il computer e buttarlo dalla finestra. È possibile che sia successa una cosa del genere, però, insomma, non ce ne vogliate. Noi abbiamo un altro autore, non lo dico per sicurezza, prendiamolo come i Nickelback, poi vediamo. Nel frattempo arrivano invece Linkin Park con questo suono un po' più duro, un po' più tosto, un po' più elettronico anche, con Crawling. Crawling. Ormai mancano ben 8 minuti, anzi 7 minuti in questo momento quasi, alla conclusione di questa ennesima puntata di Rock Revolution su CRMP Radio. Vi ricordiamo il nostro sito internet, andate a visitarlo, rockrevolution.it, mentre il sito della nostra emittente crmpradio.it è abbastanza semplice. Da lì potete poi ascoltare le repliche o semplicemente andare a guardare la gallery fotografica con appunto gli ospiti di questa settimana. Sono i Licks da Palermo. Adesso un bel classicone con tanto di cappello, Creedence Clearwater Revival. proprio una canzone da macchina mentre piove questa qui. Cosa state facendo, porcelloni? Caro Simone, ho visto che c'è una bella notizia che riguarda Lenny Kravitz, questo artista che io ammiro tantissimo perché veramente è polifunzionale, nel senso che suona tantissimi strumenti e quando va in studio di registrazione è messo lì che fa tutto, dalla A alla Z praticamente. Che notizia mi porti di bello? Sì, Lenny Kravitz, che tra l'altro è anche un vincitore di 4 Grammy Awards, è orgoglioso di annunciare l'uscita del suo nuovo nono attesissimo album in studio, ovvero Black and White America, nell'estate di quest'anno, del 2011, con l'etichetta Roadrunner Records Atlantic Records, una, diciamo, un connubio tra due etichette. Questo è il primo lavoro di Kravitz con la nuova etichetta, appunto, dopo 8 album e più di 35 milioni, pensate, di dischi venduti. Traduceteli in soldini, vedete un po' cosa viene fuori. Tra l'altro è il suo primo album di inediti a 3 anni dal precedente It's Time for a Love Revolution, Black and White America, è un CD, insomma, rock intriso di funk, arricchito con un riff di chitarre firmati dalla personalissima interpretazione di Kravitz, quelli che poi sono gli strumenti che va a suonare, travolgenti melodie e un lirismo innegabilmente corale, insomma, che poi va a firmare quello che è il suo marchio personale in tutto quello che lui va a comporre. Tra l'altro poi, ovviamente, dopo l'uscita di questo disco partirà con un tour mondiale che toccherà le principali capitali europee e non solo. Tra l'altro poi l'artista in una recente intervista ha dichiarato di essere molto eccitato all'idea che chiunque possa ascoltare la musica di Black and White America. Dal punto di vista musicale e lirico sento che questo è l'album più vario e ricco della mia carriera, e lo ferma appunto il cantante Lenny Kravitz, che tra l'altro ha dedicato a noi di Rock Revolution la canzone It's Time for the Love Revolution. Infatti doveva, anziché così doveva dire It's Time for Rock Revolution. Infatti, una bella jingle bella pronta. Infatti, vabbè, ci mettiamo in contatto, facciamo fare una nuova jingle per Rock Revolution cantata da Lenny Kravitz, non sarebbe male effettivamente. Vabbè, allora la musica continua, gli ultimi due pezzi purtroppo stasera non ce ne vogliate. Arrivano i Wolf Mother dall'Australia con Woman e The Neck, My Sharona. Dovete rompere le regole. rock and roll with Rock Revolution. Neck, Mesh Rona e Wolf Mother con Woman. Questa era l'ultima sequenza di due brani che abbiamo ascoltato questa sera, che ascolteremo poi chiaramente prossima settimana, però certo, non chiaramente, sempre gli stessi. Avremo delle altre belle novità da ascoltare anche la prossima settimana. E quindi, caro Simone, anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione di questa ennesima puntata di Rock Revolution. Andate sempre a guardare la replica dal nostro sito rockrevolution.it, il nostro podcast e poi tutti quanti i video e le foto che settimanalmente insomma su pubblichiamo. YouTube anche caricheremo tutti i video delle interviste delle band che avremo il piacere di ospitare, insomma andate a vedere tutto. Bene, appuntamento quindi alla prossima settimana, sempre chiaramente venerdì dalle 21 a mezzanotte, la replica domenica sera stesso orario 21 a mezzanotte. Poi se avete voglia insomma sul nostro sito, come già detto, c'è il podcast lì, potete ascoltarlo anche sul vostro telefono. Questa è una novità di quest'anno, potete insomma ascoltare, caricare con iTunes tutte le repliche di Rock Revolution, ovviamente tutti i programmi di CRM più Radio. E infatti un'anteprima che vi do, così tutta la settimana state tranquilli, che a breve ci sarà anche l'applicazione di Rock Revolution che potrete scaricare sul vostro iPhone per andare a visitare e scrutare insomma fra i vari contenuti del nostro programma. Saluto Gianni in regia, buonanotte Gianni, la nostra redazione Ida che salutiamo, appuntamento a tutti quanti voi la prossima settimana venerdì dalle 21 alle 23. Avete appena ascoltato Rock Revolution su CRM Happy Radio. Sugar to kiss.